ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Io non posso saltare perché ci siamo al governo insieme. Venite la condanna a dargli sempre funzione così calcolati, pena base da 5 per il reato di cui al capo A, aumentata da 6 per il reato di cui al capo B. Come pene accessorie, così come prevede il codice di procedura penale, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per 6. Preceduta da una manifestazione con anche i ministri in piazza tra fischi e applausi, seguita da un fiorire di polemiche nonostante lo sforzo di trasformare tutti i falchi in colombe. La requisitoria di Ilda Boccassini al processo Ruby contro Silvio Berlusconi, che segue di pochi giorni la condanna in appello per l'ex premier per il caso dei diritti TV Mediaset, riporta l'Italia di nuovo lì, a quel nodo irrisolto che è la giustizia, riporta l'Italia ai giorni degli attacchi alle toghe, alle trincee dei magistrati, alle richieste di intervento a tutela, ad un clima, insomma, che immediatamente torna rovente, infiammato da dichiarazioni che parlano di odio, di destabilizzazione. Tutto già visto nel braccio di ferro che si consuma sì sugli scranni parlamentari ma con lo sguardo sempre rivolto alle aule dei palazzi di giustizia. E ogni volta il precario equilibrio del governo, ora dalle larghe intese, traballa ancor di più. Terremoti che preoccupano particolarmente il Quirinale, che ha un filo diretto nei momenti più difficili come questo con il suo vice al Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, che in questa intervista ad A Ciascuno il Suo mette in guardia dai pericoli di strappi sulla giustizia. Difende il lavoro dei magistrati e rinnova il suo impegno, spegnere il più possibile l'incendio intorno alla giustizia, perché il rischio è che le fiamme poi facciano crollare tutto quanto così faticosamente costruito nella tela delle trattative del Colle. Io continuo ad usare l'estintore come ho sempre fatto. Viviamo una situazione politico, economica, sociale molto difficile, abbiamo un governo che si regge su un equilibrio molto delicato, c'è una situazione anche di tensione, di difficoltà nel paese e da parte dei cittadini. Credo che questo debba indurre tutte le persone responsabili a fare ogni sforzo perché non si alimentino focolai di tensioni. Noi abbiamo problemi seri di fronte che mi auguro il governo saprà affrontare. Lasciamo che la giustizia faccia il suo corso senza polemiche e senza strumentalizzazioni. Ecco Presidente, un Ministro della Repubblica che parla di magistrati che destabilizzano, che effetto fa? Io non credo che i magistrati destabilizzino, i magistrati fanno il proprio dovere, qualche volta le iniziative giudiziarie in qualche modo hanno degli effetti degli effetti tangenziali o delle ricadute anche sul sistema politico, questo capita in tutto il mondo, capita qualche volta anche l'inverso nei rapporti tra la politica e la giustizia, bisogna che i protagonisti sappiano gestire queste inevitabili fasi di effetti reciproci con lucidità, con pacatezza, senza esacerbare gli animi e senza fare di questo elementi che inducano a destabilizzare il sistema nel suo complesso. Cioè, di fatto, quindi, come a dire, non sono i processi o i magistrati che destabilizzano, ma questo genere di polemiche finiscono per destabilizzare la tenuta istituzionale del paese. Bisogna che tutti facciano il proprio dovere con senso della misura, con self restraint, facendosi carico da parte sia della magistratura sia della politica del bene comune a cui tutti devono contribuire. Ecco, Presidente, quindi glielo chiedo proprio in modo esplicito. Le polemiche che in qualche modo si sono acuite in questi ultimi giorni dopo la sentenza e la condanna per il processo Mediaset al Presidente Berlusconi e la requisitoria nel processo Ruby e l'ombra, diciamo, di una possibile interdizione dai pubblici uffici, lei dice, mi corregga se sbaglio, anche l'effetto di un'eventuale interdizione dai pubblici uffici vanno viste le cose così come sono, cioè i fatti, cioè l'applicazione delle leggi e non le polemiche politiche vanno tenute fuori dalle aule di giustizia. Riconduciamo la dialettica tra la pubblica accusa e gli imputati all'interno del processo, dove devono svolgersi secondo la fisiologia di quell'istituto e lasciamo la politica alle sue dinamiche, cioè cerchiamo di non creare cortocircuiti tra questi due settori che vanno tenuti distinti, anche se mi rendo conto che ci vuole uno sforzo per farlo. Ecco, Presidente, ma questo cortocircuito, secondo lei, proprio in questo momento politico italiano, anche così delicato, come accennava anche lei in apertura di questa conversazione, questo cortocircuito ora sarebbe ancora più rischioso? Cioè una rottura sulla giustizia sarebbe ancora più rischiosa in questo momento, vista lo stato politico italiano? Ma io credo che nessuno pensi di fare rotture sulla giustizia. Ho preso atto che anche autorevoli esponenti politici hanno dichiarato che le vicende processuali non devono avere ricadute sulla stabilità del governo e dunque, come dire, cerchiamo di vivere queste coincidenze di avvenimenti con sangue freddo, tutti quanti. Un sangue freddo ancora più necessario vista l'attuale situazione politico-istituzionale? Non c'è dubbio. Un sangue che però si riscalda immediatamente nel susseguirsi delle dichiarazioni politiche e che porta proprio il CSM nel suo plenum a chiedere formalmente un intervento del Guardasigilli a sostegno delle toghe, a sostegno soprattutto della procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, contro la quale già i parlamentari del PDL marciarono con una manifestazione fuori e dentro il Palazzo di Giustizia e che lei stessa ha voluto ricordare in chiusura della sua requisitoria. Io mi sono sentita smarrita. Smarrita perché non riuscivo a capire le ragioni per le quali dei rappresentanti delle istituzioni avevano invaso il Palazzo di Giustizia. Giugno le arringhe della difesa, 24 giugno al momento la sentenza per il processo che tutti i media del mondo hanno voluto seguire direttamente e che in Italia ha riportato ai massimi livelli in questi due anni la febbre tra politica e giustizia, con la grande preoccupazione, come sentiremo nella seconda parte di A Ciascuno il Suo, del Quirinale, che ha un filo diretto col CSM. A ciascuno il suo. In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Milano, all'udienza dell'8 maggio 2013, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa contro Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Colombo Marco, Dal Negro Giorgio, Del Bue Paolo, Galetto Gabriella, Lorenzano Daniele, Confalonieri Fedele, International Media Service, Fenech Anthony. La Corte, visti gli articoli 591, 592, 605 CPP, conferma la sentenza del Tribunale di Milano del 26 ottobre 2012. Una pessima sentenza, assolutamente annunciata. Noi eravamo da sempre convinti che questa sarebbe stata la decisione della Corte d'Appello e per quello che avevamo presentato la rimessione. E abbiamo preso atto di questa, appunto, decisione. E adesso faremo ricorso per Cassazione. Purtroppo la Cassazione non ha ritenuto di voler spostare i processi, purtroppo, e invece bene avrebbe fatto a consentirci di fare un processo sereno a Brescia. stata la prima condanna in assoluto anche in appello per Silvio Berlusconi, quella al processo sui diritti TV Mediaset, una storia che nel tempo la prescrizione ha progressivamente eroso e che le inchieste raccontano da più di 10 anni. Una storia che è stata pure la miccia che ha riacceso le mai sopite tensioni tra politica e giustizia, nonostante i recenti tentativi di conciliazione intorno al tavolo del governo dalle larghe intese. Ci ha messo molto poco l'incendio a diffondersi, alimentato dalle polemiche e più di tutto dalle manifestazioni di Brescia del PDL, con in piazza pure il vice premier Alfano, mentre dal palco il leader del partito, Silvio Berlusconi, tuonava contro le toghe, anche se con toni più bassi rispetto al passato. Ci sono dei magistrati politicizzati che sono invece accecati dal pregiudizio e dall'odio nei miei confronti. Ebbene, io da qui oggi a questi magistrati voglio mandare un messaggio. Potete farmi di tutto, ma c'è una cosa che non potrete impedire mai, mai, mai. Non potrete mai impedire a molti milioni di italiani di volermi alla testa del Popolo della Libertà. Una manifestazione che ha spinto il vicepresidente del CSM Michele Vietti ad intervenire subito in difesa delle toghe dopo un consulto direttamente col Quirinale, che poi fa trapelare la propria condivisione con la linea di Palazzo dei Marescialli. Io sono molto onorato che il Presidente della Repubblica abbia voluto pubblicamente esprimere condivisione per alcune mie prese di posizione in difesa della magistratura, che richiamavano al dovere di tutti di rispettare i magistrati come presidio insostituibile di legalità in questo Paese. Il Capo dello Stato ha espresso in molte occasioni la sua preoccupazione che si addivenga a una reale pacificazione nel Paese e che si affronti tutti insieme con uno sforzo corale questa difficile situazione. Ancora recentemente, nel Giorno della Memoria, ha invitato tutti a evitare la violenza, non solo nei fatti, ma anche quella verbale e quella della polemica politica. Credo che sia un invito quanto mai opportuno che tutti dovrebbero raccogliere. Trova violenza in queste espressioni, anche polemiche politiche di queste ultime ore intorno alla giustizia? Io adesso non voglio giudicare, perché un mio giudizio rischierebbe di suonare un ulteriore contributo alla polemica, che invece io voglio sopire e sedare, e quindi non do giudizi, ma mi limito ad esprimere un auspicio. Facciamo tutti nostro l'invito del Capo dello Stato e evitiamo le polemiche, evitiamo le frizioni, cerchiamo di concorrere a un clima di serenità, che è quello di cui i cittadini hanno bisogno per affrontare le loro difficoltà quotidiane. E di cui ha bisogno anche la giustizia. Lei stesso infatti ha già detto che questo non è materia da stadio. Ha invitato tutti ad attuare concretamente questa pacificazione che è così tanto, diciamo, sollecitata da tanti, e soprattutto considerando lo Stato anche italiano. Lei ha parlato della situazione anche italiana con criminalità organizzata, criminalità comune, reati economici. Ecco, se dovesse in qualche modo esprimere un suo parere su questo fronte, cioè il rischio che le polemiche in qualche modo ancora una volta allontanino invece i provvedimenti necessari anche in tempo di giustizia, lo vede? Un Paese ha bisogno di avere regole certe e soprattutto regole che vengano applicate efficacemente. La funzione di dare attuazione alle regole è una funzione tipicamente giudiziaria, per questo bisogna evitare qualunque delegittimazione dei giudici, perché questa si tradurrebbe in un generale discredito delle regole, e in un sistema di competizione internazionale un Paese che ha regole screditate, è un paese non solo in cui è difficile la convivenza civile, ma anche scarsamente attrattivo per gli investimenti, dunque viene penalizzato anche sotto l'aspetto economico. Per questo abbiamo bisogno di magistrati rispettati, perché attraverso di loro il rispetto delle regole diventa non solo un elemento di coesione nazionale, ma anche un elemento di crescita economica. Ha apprezzato il fatto che l'annunciata manifestazione della PDL nei pressi del Tribunale di Milano è stata spostata a Roma, questo ovviamente faceva richiamare a tutti quanto era successo a marzo, cioè la presenza dei parlamentari dentro e fuori il Palazzo di Giustizia milanese. Sì, mi è sembrata una saggia iniziativa. E questo anche considerando che c'era stata invece una manifestazione di Brescia su cui lei ha espresso già un qualche perplessità. Sì, le ho espresse. Credo che le ragioni di quelle perplessità siano state apprezzate ampiamente, e quindi mi auguro che non dobbiamo ripeterci oltre, perché questa materia della giustizia, ahimè, in questo paese patisce questo effetto di coazione a ripetersi da una parte e dall'altra, che alla fine rischia purtroppo poi di allontanare tutti i cittadini dal rispetto e dalla considerazione di una attività che invece è fondamentale e indispensabile. Cosa pensa di quanto ha detto il Presidente della Commissione Giustizia, secondo cui la riforma della giustizia appunto ora può attendere? Ma bisognerebbe anzitutto intendersi di che cosa si vuol dire quando si parla di riforma della giustizia. Io non credo alle grandi riforme epocali che ogni tanto sono state annunciate, credo però che alcuni interventi settoriali per l'accelerazione dei processi, per la riduzione dei tempi della risposta di giustizia, per una maggiore efficienza dell'organizzazione, per la maggiore incremento dell'informatizzazione nel sistema giudiziario, questi siano tutti interventi che invece si possono fare, e si possono fare probabilmente senza innescare ulteriori polemiche. Se dovesse indicare la sua priorità in questo momento, quale secondo lei dovrebbe essere la riforma da cui partire, quella più necessaria per la giustizia? Io penso, e lo dico spesso, l'ho anche scritto, che il problema fondamentale sia quello di portare fuori dal processo una massa eccessiva di contenzioso, sia civile che penale, che intasa il processo stesso e non consente alla fine di arrivare ad una risposta celere ed efficace. E quindi secondo me bisogna lavorare sulle soluzioni alternative alle controversie nel civile, e bisogna lavorare ad una depenalizzazione e a un incentivo forte per i riti alternativi nel penale. E voi cosa pensate di questo scontro ormai decennale tra politica e giustizia? Se vi va, scrivetelo sulla pagina Facebook di Storiacce oppure sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.